Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidamente la mail sottotiro@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, voi sapete che nel passato noi abbiamo avuto ospite alcuni mesi fa il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Carla Girasole, perché abbiamo seguito la sua raccolta di legalità di finocchi in beni sottratti alla Cosca Arena, che domina, diciamo così, quella zona in maniera più o meno imperterrita. Ricorderete che ci furono grandissime difficoltà, tanto che sentimmo anche il prefetto Panico che ci raccontò come lo Stato era stato vicino all'amministrazione comunale. Ora torniamo ad occuparcene. Perché? Perché leggendo i giornali calabresi sono stato molto molto colpito da una proposta che adesso sentiremo se si è tramutata o meno in un atto normativo, in un atto propositivo in consiglio comunale, di un consigliere comunale appunto di Isola di Capo Rizzuto, che è anche vicepresidente del consiglio provinciale di Crotone, Raffaele Martino, quindi un politico di peso nell'area. Allora, in una zona in cui la Cosca Arena la fa pressoché da padrona, e in una zona in cui si sono susseguiti, ci sono stati omicidi, in cui la politica non sempre è trasparente e in cui sono stati assegnati ettari e ettari di terreno confiscati alle cosche, ebbene Raffaele Martino se ne esce con una proposta che a me francamente fa gelare le vene. Lo dicevo già prima della trasmissione a Raffaele Martino che ci confrontiamo su questo. Qual è la proposta? Bene, agevolare, fare in modo che i figli dei mafiosi vadano ed entrino in qualche modo nella gestione dei beni confiscati alla mafia. Mafiosi non si nasce ma si diventa, dice Raffaele Martino. A me questa proposta fa enormemente paura. Buongiorno Martino. Buongiorno a voi. Allora, dica lei ai nostri radioascoltatori, provi a convincerci, ovviamente io non ho tesi precostituite ma ho le mie idee, che invece questa è una buona proposta, e mi correggo ovviamente laddove ho sbagliato, Martino. No, ma ci mancherebbe. Intanto vi ringrazio per avermi contattato per esprimere meglio quello che, diciamo, qualche tempo fa ho voluto così dare questa mia proposta in un incontro appunto insieme al Libero, in un bene confiscato, sì, alla mafia, sì, in località di Cutro, steccato di Cutro, certo. Eravamo lì. Comunque io ritengo, perché è una materia molto seria, quindi va vista questa mia proposta in un'ottica più generale. Intanto voglio mettere come premessa, perché voglio dire, si sta parlando tanto di mafia e nessuno nasconde che nel nostro purtroppo territorio diciamo c'è la mafia, l'andrangheta, ma io voglio mettere in evidenza anche, diciamo, le tante risorse positive che sono nate da 30 anni a questa parte in questo nostro territorio. Quindi non è solo mafia. No, ci mancherebbe altro. Non è solo, io questo lo voglio, perché è giusto, voglio dire, dire anche la l'altra però parte il tema della... Però il tema, Martino, non è questo, nessuno mette in dubbio. Voglio partire da questo per dire, no, che è più facile, diciamo, dare la notizia di un fatto diciamo criminale che dei gesti di solidarietà. Siccome dei semi sono stati seminati e oggi si stanno vedendo i frutti di questa, allora io faccio più colpa a parlare, a schierarmi ripetutamente contro la mafia, che magari faccio più meno rumore se parlo di alcuni gesti di solidarietà. Quindi io, no, ma questo io capisco che sia un gesto di solidarietà. Certo, voglio dire in premessa che Isola Capo Rizzuto, no, almeno parlo perché io sono di Isola, non è solo mafia. D'accordo. Allora io la mia proposta da dove nasceva? Io ho detto, perché è chiaro che perché l'andrangheta è la più forte, diciamo, è la più forte famiglia mafiosa, organizzazione criminale che ci sta quasi nel mondo, perché appunto c'è un radicamento all'interno della famiglia, cioè questa famiglia si mantiene così unita e così forte che anche se muore il capo clan ci sono, sì, poi i figli, ci sono i nipoti. Ecco, allora, ma scusi, questo non è una contraddizione in termini, allora no, è una catena. Esplicitare quello, no, no, ma io mi inserisco con delle domande, quindi così no, lei. Ma io, siccome. Ma non lo dico io, lo dicono, voglio dire, la magistratura, le forze dell'ordine, che benissimo stanno facendo in questo nostro territorio. Quindi la repressione ci vuole, quindi fa molto bene lo Stato a sequestrare i beni ai mafiosi, perché solo così possiamo, diciamo, limitare quelle che è la loro cosa. Accanto a questo però, e lo dico anche da cristiano credente, accanto a questo ci vuole la prevenzione, perché se è vero quello che dicevo prima, che la 'ndrangheta è la più radicata, certo, e forte organizzazione criminale addirittura nel mondo, dobbiamo colpire al cuore. Allora, come lo Stato fa? Diciamo, colpendo al cuore, appunto, prendendosi i beni che in modo disonesto si sono accaparrati, noi, la società civile, le associazioni di volontariato, la Chiesa e le altre istituzioni, bisogna colpire al cuore questa famiglia. E come bisogna fare? Bisogna cercare di individuare, e ci sono, mi crede, ci sono all'interno di queste famiglie tutte quelle persone. Io parlo soprattutto nel mondo dell'adolescente, perché non posso andare ad addestrare una persona di 30 anni che ormai ho capito lo spirito. Io lo riassumo. Lei dice: ci sono delle persone che devono essere ancora formate all'interno di queste famiglie mafiose. Io lì voglio intervenire. Quei ragazzi che ancora non hanno una cultura permeata di mafia possono essere recuperati lavorando in quei terreni, è così? Bisogna che attraverso le nostre associazioni di volontariato, Libere è una di queste, quando saranno assegnati questi beni confiscati, dobbiamo avere quel coraggio di evitare di aprire sempre di più questo solco tra va bene. Allora, cercare di metterli è chiaro. Non isolarli, per dire: guardate, ecco la fine che fanno i vostri parenti. No, d'accordo, Martino. Martino è stato chiarissimo. Ora mi risponda ad un'ultima domanda cattiva, perché sennò io occulterei una parte di verità ai miei radioascoltatori. Se lei è lo stesso Raffaele Martino che è stato ritratto in foto con Fabrizio Arena, figlio del boss dell'Andrangheta Carmine Arena, Nicola Di Giro Girolamo ed altri esponenti dell'Andrangheta in famose riunioni del 2008, è la stessa persona? Guarda, dottor Gallullo, intanto non è vero che all'interno di quel locale non c'era assolutamente Fabrizio Arena. È stato solo Io glielo sto domandando. Dottore Gallullo, io, guarda, mi sento così un uomo libero, no? Che non ho paura. Infatti non c'è stato poi seguito. L'unica cosa che gli posso dire è che se chiamano da Roma, dalla parte della segreteria di un senatore della Repubblica, che dico: guarda che la prossima settimana verrà l'onorevole Di Girolamo e siete invitati a una cena dove c'erano 100 persone, cui ex carabinieri, il mondo dell'associazione, e poi alla fine ti fanno una foto, che quella sera io avevo anche una febbre. Se poi dopo un anno esce fuori ma infatti Di Girolamo era una persona poco per bene, ma infatti la mia era soltanto una domanda, non ho preso posizione, ho fatto una domanda da giornalista chiedendo se era lei lo ha confermato, ma mi conferma anche che non c'era il latitante Fabrizio Arena. Dottor Martino, la ringrazio del suo intervento, grazie a Carmelo Lauricella per la regia e a Laura Faggin in redazione. Roberto Gallullo vi dà appuntamento a domani.